da Bologna, ma lei non poteva venirci a trovare qui ad Autopromotech? Ci telefona? Sì, Walter. Mi sente? Sì, certo. Può darsi che io non sappia cosa dico. Allora, io sono appena uscita da Autopromotech per fare delle assistenze, per cui è un attimo tardi. Perché non è venuto a trovarci? Ci siamo mancati per un pelo, Walter. Io sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna. Buongiorno e benvenuto, Bruno. Buongiorno, sì, Bruno. Sì, buongiorno. Allora, se era meglio se era biondo, però è Bruno. Trazione anteriore e posteriore non serve nulla, mi viene sempre da vomitare. Ma che disastro, io mi credo. Ho scelto te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere una vita che sia di tutti i giorni e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Scusi tanto signora, sa dov'è che danno le pensioni? Di là? Grazie, molto gentile. Filini? Chi è? Io, Fantozzi. Qui, carissimo Fantozzi, come va? Ecco, per prendere la pensione, suppongo. Sì, la ce l'hanno, mi ha detto. Ma dove andiamo? Lì, venga, l'accompagno. Ah, grazie, Fantozzi, che pacchia questa pensione. Si prendono i soldi senza lavorare. Eh beh, proprio una pacchia, chissà quanto prende una pacchia dopo aver lavorato magari per 40 anni e aver accumulato contributi, insomma una pacchia meritata, diciamo pure così, chissà quanto prendeva Fantozzi di pensione, chissà se sarebbe stato interessato dallo stop alle rivalutazioni che era stato introdotto dalla riforma Fornero, ma soprattutto chissà quanto sarebbe disorientato il povero ragioniere adesso nel cercare di capire come ottenere il rimborso di ciò che a detta della Corte Costituzionale lo Stato, colpevolmente, tra virgolette, non gli ha dato. Se ne parla tutti i giorni, da molti giorni, da vari punti di vista, della decisione della Consulta di dichiarare illegittimo il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici al costo della vita per gli assegni superiori a 3 volte il minimo INPS. Per tornare su questo argomento, noi di Cuore Denari aspettavamo il decreto del governo, che è arrivato proprio una settimana fa. Ora sappiamo, con maggiori dettagli, come funzionerà questo rimborso e quindi possiamo dedicare uno spazio di servizio per capirlo insieme, per rispondere a tutte le vostre domande. Ci dedicheremo a questo nella prima parte di Cuore e Denari e in questo inizio di settimana. Voi intanto iniziate a prenotare le vostre domande all'800 24 00 24. Nella seconda parte di Cuore e Denari invece ci occuperemo della vista dei nostri bambini. In linea con noi per rispondere a tutti i dubbi, alle vostre domande, ma anche per aggiornarci sulle novità diagnostiche e terapeutiche, il professor Paolo Nucci, che è direttore della clinica oculistica universitaria all'ospedale San Giuseppe di Milano. Quindi parleremo dei difetti della vista più comuni, dell'importanza della visita oculistica, dei segnali che aiutano i genitori a capire se il bambino ha un difetto oculare. Molti genitori rimandano i controlli ai primi anni delle elementari nell'attesa che il bambino cresca e diventi più collaborativo. In realtà questo atteggiamento, che è comprensibile, è potenzialmente rischioso in quanto potrebbe rimandare la diagnosi di disturbi visivi e rendere quindi più difficile la loro correzione. Infatti prima si individuano e si curano le anomalie degli occhi, meglio si contrasterà un cattivo sviluppo della vista. Ad esempio l'occhio pigro, che si chiama in termine tecnico ambliopia, se scoperto precocemente può guarire del tutto. Parliamone. 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi al nostro numero verde. Ed ogni giorno tutti al lavoro, dall'idraulico al barbiere, muratore, giardiniere. Abbiamo un po' questa immagine del pensionato che se la diverte in balera, no? Beati sì. Loro, direi, perché anche noi magari ogni tanto un giretto di valzer, guarda, non è che bisogna arrivare alla pensione. E abbiamo, diciamo, le doti e le qualità artistiche per poter questo lo dico quello io. Quello non lo so, però possiamo provarci. Intanto noi così a passo di valzer abbiamo aspettato questo decreto legge per sapere qualcosa in più, soprattutto qualcosa di certo sulle modalità di rimborso per i pensionati che ne hanno diritto, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo minimo, lo stop alla rivalutazione dell'inflazione per le pensioni superiori a 3 volte la minima. Questo stop era stato introdotto, come ricorderete, dalla riforma di Elsa Fornero. Ne avrete sentito tanto parlare in questi giorni anche dalle nostre frequenze, dal punto di vista politico, della sostenibilità economica di questa operazione, in merito appunto al peso che questa decisione ha avuto sulle sorti delle casse dello Stato. Noi oggi vogliamo parlarne con il nostro taglio alla Cuore Denari, un taglio di servizio. Vogliamo rispondere alle vostre domande concrete e ripercorrere insieme l'ABC di come avverranno questi rimborsi e a chi toccheranno. Per questo abbiamo coinvolto il nostro Fabio Venanzi, che in questi giorni è stato spremuto a dovere dal Sole 24 Ore ed è uno dei nostri massimi esperti di questioni previdenziali. Dottor Venanzi, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a tutti. E naturalmente vogliamo coinvolgere anche voi all'800 24 00 24. Siete fra i pensionati coinvolti o lo è un vostro familiare? Vi è chiaro il meccanismo di rimborso che vi interesserà della mancata indicizzazione di questi anni? Avete già quantificato quanto vi spetta e avete capito come lo otterrete? Sai che faccio? Io parto subito con una domanda di un'ascoltatrice. Mi piace, mi sembra un'ottima idea. Allora salutiamo e diamo il benvenuto ad Anna da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Anna, benvenuta. Allora, la mia domanda è molto semplice, anzi ne comprende poi due di risposte. Sì. Una è se effettivamente è vero che bisogna fare la richiesta scritta alla sede INPS di appartenenza per avere il rimborso qualora uno ne avesse diritto. Perché sul web gira una lettera intestata alla Corte per chiedere appunto il rimborso, e altrimenti, ora questa cosa è un po', diciamo, in contrasto con quello che si dice che è in automatico il rimborso, sì. No? Mm-hmm. Quindi l'altra cosa, spesso accade purtroppo che nel caso per esempio di pensione diretta e di reversibilità, siccome il CUD è unificato, spesso capita l'errore che viene considerato il lordo di tutte e due. Ho capito, Anna. Non so se... Quindi allora, come farà l'INPS a scindere le quote? Cioè, non è una cosa molto semplice. No, Anna, speriamo che abbiano la capacità tecnica di fare appunto una separazione delle posizioni. Speriamo che l'INPS sia in gamba, insomma. Esatto. Anna, aspetti lì. Partiamo con ordine intanto sul rimborso che spetta ai pensionati che hanno determinate caratteristiche. Dottor Venanzi, partiamo subito appunto da questa questione del rimborso più o meno in automatico, perché credo che sia la questione che è un po' più al centro delle domande che stanno facendo tutti i pensionati che hanno diritto a questa restituzione, no? Ed è effettivamente vero, Anna lo dice, io l'ho visto anche, non mi ricordo adesso se nella trasmissione di Floris di martedì o in quella di Giannini appunto a Ballarò. In ogni caso ho visto un servizio in cui effettivamente qualche centro di assistenza fiscale suggeriva ai pensionati che sono già andati a chiedere informazioni di fare comunque una domanda per iscritto, di segnalare la propria posizione e di segnalarsi come aventi diritto a questo rimborso. Mi spiega lei come ne pensa e se nelle pieghe del decreto uscito lunedì scorso c'è qualche cosa di chiaro su questo punto, la modalità tecnica per ottenere il rimborso. Allora, il decreto precisa soltanto che le somme arretrate dovute al ricalcolo per l'adeguamento all'inflazione saranno corrisposte al 1 d'agosto 2015 a tutti gli aventi diritto. Quindi, come abbiamo sempre sostenuto sulle pagine del giornale, non è richiesta nessuna lettera o nessuna documentazione aggiuntiva. L'INPS sa chi è che non ha beneficiato della perequazione e l'ufficio ricalcolerà i trattamenti e erogherà l'arretrato. Quindi il ricalcolo avviene d'ufficio, di conseguenza anche la restituzione dovrebbe essere accreditata in automatico nel, sì, primo assegno pensionistico. Lo prevede proprio espressamente, esatto, l'articolo 1 del decreto legge che è stato pubblicato la settimana scorsa. Il mistero 65. È, esatto, capire come mai circoli su web un facsimile di lettera per chiedere la restituzione. Secondo lei è possibile che qualcuno vada a chiedere se si trova magari in una situazione limite? Guardi, l'unico caso che non è stato ancora contemplato nel decreto legge, ma sul quale sicuramente l'istituto emanerà una qualche circolare o un qualche messaggio esplicativo, riguarda le pensioni non più in pagamento perché magari i titolari sono deceduti. Quindi però il rimborso va di diritto agli eredi, giusto? Certo, che possono rivendicarlo, per cui attenzione anche a questo passaggio che è molto interessante. Sul secondo aspetto sollevato da Anna, dottor Venanzi, siamo in grado di dare una risposta? Certo, chiedeva pensione diretta o reversibilità. Viene comunque riconosciuta sui trattamenti pensionistici in godimento considerandoli nella loro totalità, quindi l'INPS è comunque in grado di sapere la scissione degli imposti, certo, cioè quanto viene da una pensione diretta e quanto viene da una pensione indiretta, sì, ma di fatto la perequazione si applica sulla sommatoria delle due pensioni. Quindi, se io ho due pensioni che sono inferiori a 3 volte il trattamento minimo, ma la somma mi darà un importo superiore a 5 volte, la perequazione sarà quella di 5 volte. Ah, sì. Certo, quindi non è, praticamente il rimborso non dovrebbe avvenire, no? Comunque nella quota minima. Sì, esatto. Allora, speriamo intanto con il primo caso di Anna di aver movimentato la situazione. Vedo già che ci sono molti ascoltatori pronti ad intervenire all'800 24 00 24. Volevo ribadire un po' i termini legislativi del decreto, magari per chi se lo volesse andare a pescare, dottor Venanzi, avesse questa passione di leggerlo. Il decreto emanato lunedì scorso, il 18 maggio, è stato già ribattezzato bonus Poletti. Ci sono 8 articoli con tutte le regole per il ricalcolo dell'indicazione perduta nel biennio 2012-2013 e confermiamo anche, buona notizia, che la rivalutazione per il futuro è stata ripristinata. I termini di legge, lei si ricorda, dottor Venanzi? Allora, i termini di legge per l'applicazione della rivalutazione 2016? Sì, questo decreto di lunedì, che numero è? Allora, no, il decreto legge 65, il numero 65, esatto, che è stato pubblicato però giovedì e a quindi porta settimana. La data del, esatto, 21 maggio. Per quanto riguarda invece la rivalutazione, diciamo, futura, quella del 2016, è stata riconfermata nella stessa misura che era stata già prevista al governo Letta e in più il governo stesso riconosce un ulteriore aggiustamento, diciamo un ulteriore piccolo aumento per recuperare la mancanza di adeguamento delle inflazioni precedenti. Intanto ti dico che era una mazzurca e già questo dibattito lo abbiamo aperto anche un'altra volta, chiusa parentesi, Nicoletta. Ha scritto un ascoltatore, perché noi non ci saremmo, esatto, arrivati, quindi abbiamo detto siamo brave, siamo in gamba, eccetera. Proprio bravissime. Già non riconosciamo l'advisor da una mazzurca. Andiamo a Salerno che è meglio. Dai, buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno a lei, la ringrazio della possibilità che ci danno i poveri pensionati. volevo chiedere un'informazione. Prima di tutto, non è un bonus che ci dà il signor Renzi, ma è una cosa che noi ci spetta di diritto, ma se la consulta dice eccetera. Precisiamo una cosa. La seconda cosa, io volevo sapere, ci dà tutti gli arretrati oppure ci dà questo famoso bonus che lui regala di tanto in tanto sotto le elezioni? E poi un'altra cosa, le pensioni verranno adeguate? O ci darà un altro bonus di 10-15 euro e non arriviamo alla somma dei soldi che abbiamo perso sull'aggiornamento delle pensioni? Allora Antonio, va bene, quindi il suo caso ci dà modo di rifare l'ABC di tutto l'impianto di questo provvedimento e dei scaglioni anche in base ai quali avverrà questo rimborso che Antonio contesta che venga battezzato, che sia stato battezzato bonus Poletti, dottor Venanzi, e lo chiameremo rimborso Poletti. Allora adesso chiamiamolo come ci pare, effettivamente non è un bonus che cade dall'alto, l'hanno voluto chiamare così, insomma adesso la terminologia ci interessa poco. Antonio voleva sapere la misura del rimborso, no? E appunto forse vale la pena in questo caso ribadire che a seconda dell'entità percepita del trattamento pensionistico, la restituzione effettivamente avverrà sulla base di determinate percentuali. Ci vuole fare lei l'ABC? Allora, Deborah, la questione è alquanto complessa e cerco di renderla il più semplice possibile. Sicuramente il decreto legge 65 non ripristina quella che sarebbe stata la situazione precedente alla data di entrata in vigore della riforma Monti-Fornero. Quello che viene riconosciuto oggi ai pensionati la potremmo definire come erogazione di un'indennità una tantum che serve a chiudere, diciamo, il contenzioso 2012-2013, ma non serve a ricalcolare i trattamenti pensionistici ora per allora. Quindi la pensione che i pensionati di oggi si trovano a riscuotere sarà la base di partenza per il riconoscimento degli adeguamenti all'inflazione futura, ma questa base di partenza non viene ricalcolata sulla base delle inflazioni, dell'adeguamento alle inflazioni perse negli anni precedenti. Quindi di fatto ci troviamo di fronte a dei riconoscimenti una tantum, e quello che viene consolidato, cioè che quello che servirà poi per costituire la base di calcolo degli adeguamenti futuri, è di gran lunga inferiore rispetto a quella che teoricamente sarebbe aspettata. Quindi, per dirla in soldoni, dottor Venanzi, per quanto avverrà dal 1 agosto il riconoscimento di questa restituzione eccetera, una sorta di penalizzazione per tutti coloro che sono stati per tutto il pacchetto dei pensionati che non hanno visto riconosciuta la rivalutazione in quel biennio famoso, una penalizzazione c'è per il futuro? Di fatto hanno inventato un piccolo meccanismo di recupero, che è quello che, di cui accennavo nella risposta precedente ad Anna di Roma, ma di fatto parliamo di cifre veramente, veramente irrisorie. E quindi insomma, abbiamo risposto tutto ad Antonio, e lui voleva sapere appunto se il meccanismo di restituzione avverrà tutto complessivamente, quello che si deve ai pensionati che ne hanno diritto con l'assegno del 1 agosto, chi invece lo avrà scaglionato, dottor Venanzi? Allora, il riconoscimento che è stato previsto dal decreto legge 65 prevede un adeguamento parziale del 2012 e del 2013 rispetto a quelle che erano le regole di calcolo preesistenti, cioè se uno mi chiedesse se effettivamente la pensione viene adeguata agli importi ante riforma, la risposta è sicuramente no, perché prima della riforma c'erano delle percentuali di adeguamento molto più generose, perché partivamo diciamo la misura minima era del 75%, oggi vediamo che la misura minima per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo è pari a zero, quindi quei trattamenti prima della riforma avrebbero comunque goduto di una rivalutazione seppur parziale, oggi invece non avranno nessuna rivalutazione. Enzo da Genova completa il discorso sul tema della restituzione totale o parziale con la sua domanda. Enzo, benvenuto. Buongiorno. Allora, io volevo sapere se basta quel decreto legge lì per annullare la sentenza della Corte Costituzionale, visto che non ci danno in pratica niente di quello che ci viene. Ecco. Perché poi, Enzo, lei ha fatto i calcoli di quanto è nella sua idea appunto di dover ricevere? Le nostre pensioni d'oro, allora vuol dire che i loro stipendi sono di diamante, no? Perché non si prendono per qualche anno la pensione d'oro come la prendo io e vanno avanti con quei soldi? Vi? Enzo, non è questa la sede per fare, come dire, polemica, dibattito. Noi piacerebbe di più entrare nel merito e nella concretezza delle questioni. Detto questo, lei è tra i pensionati che avrebbe diritto ad ottenere questa indennità, come l'ha correttamente chiamata Fabio Venanzi? Io sono tra i pensionati che avrà questo bonus, detto così. Sì. Però volevo sapere se basta quel decreto lì in pratica per annullare la sentenza della Corte Costituzionale che dice di restituire tutto. Ecco. Ma non è annullato. Allora, dottor Venanzi, qua si pone un problema di conflitto fra, come dire, pronunce diverse tra l'ordinamento legislativo. Che ne pensa lei? Ha ragione Enzo? Allora, dobbiamo dire che il decreto legge non annulla gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale, anzi, ma li recepisce. La sentenza ha censurato quella parte della norma che bloccava gli adeguamenti all'inflazione per i trattamenti superiori a 3 volte il trattamento minimo in maniera secca. Ha detto che naturalmente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità possono indurre comunque il legislatore, il governo e il Parlamento ad adottare dei provvedimenti che riconoscono delle perequazioni parziali, considerato che già in passato su norme analoghe comunque la Corte Costituzionale non aveva censurato la norma stessa. Quindi che cosa significa? Che il discorso potrebbe ulteriormente riaprirsi un'altra volta? Allora, se qualcuno volesse impugnare una volta che sarà convertito in legge questo decreto e ci dovesse essere ulteriormente, dovesse essere sollevata la questione di legittimità costituzionale di questa norma, non è da escludere a priori che si possa rinviare a un domani quello che non viene nuovamente riconosciuto oggi, fermo restando che comunque per come l'hanno scritto, almeno in questa fase, poi dobbiamo vedere come verrà convertito, diciamo che gli aspetti principali principali della sentenza sono stati tutti rispettati. Che mal di testa stamattina, altro che la mazurka e il valzer, ci vorrebbe, non lo so, una ci salsa, vorrebbero qualcosa un po' ancora... di mercati? Certo, qua ti voglio, perché qua il mal di testa triplica, cara mia, stamattina non è una buona giornata, neanche da questo punto di vista. Andiamo a sentirli allora. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta... Cuore e denari. Ascolta, leggi la riga di mezzo di quel cartello, per favore. D'accordo. F-P-C-E-L-T-A. Perfetto! Adesso con il destro, la riga successiva, per favore. Ciò, avanti. Non ci riesco. Credo di aver capito quello che hai. Il tuo problema è molto semplice. Vedi, l'occhio destro è più debole del sinistro e questo squilibrio provoca il mal di testa. Siete miopi, astigmatici, ipermetropi. Se siete genitori avete una ragione in più per occuparvi della vista dei vostri bambini, perché sebbene sia possibile che due genitori portatori di un difetto visivo non lo trasmettano ai propri figli, la gran parte dei problemi oculari presenti in famiglia viene ereditato. Per questo motivo, sebbene una visita preventiva dal medico oculista è consigliata a tutti i bambini prima dei 6 anni, il genitore affetto da miopie, ipermetropia o astigmatismo deve rivolgersi più precocemente allo specialista. Voi lo avete fatto? E come è andata? 800 24 00 24 per prenotare i vostri interventi. A tra poco. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. E allora, insomma, questi soldi lo Stato ce li ridà, il governo ha recepito quanto ha chiesto la Corte Costituzionale, che ha imposto di ricalcolare l'indicizzazione perduta nel biennio 2012-2013. Il governo, come dicevo, con un provvedimento varato una settimana fa, andato in Gazzetta giovedì, già ribattezzato bonus Poletti, ha detto sì, faremo questo ricalcolo, che comunque rimane ancora un po' parzialmente penalizzante per i pensionati che questo denaro non lo hanno avuto in pensione, appunto, nell'assegno pensionistico negli anni passati. Io cerco sempre di sintetizzare quanto meglio si possa la questione, ma è estremamente complicata. Stiamo cercando di capirci qualcosa sulle modalità con cui da agosto questa indennità verrà restituita, appunto, ai nostri pensionati, con Fabio Venanzi del Sole 24 Ore. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande, ma aveva suscitato il nostro interesse la domanda di un ascoltatore di un'ascoltatrice. Paola che chiedeva qualcosa sul papà. Sì, il suo papà è mancato nel dicembre 2013 e la sua mamma percepisce la reversibilità. Avrà diritto, ci chiede Paolo, a percepire il rimborso anche sulla pensione di suo padre? Dottor Venanzi, allora, avevamo detto che teoricamente gli eredi sì, soprattutto in questo caso è chiara la situazione perché c'è una pensione di reversibilità. Ma Nicoletta chiedeva: è necessario, questa famosa lettera, lei ce l'ha spiegata bene, però i nostri ascoltatori continuano a mandarci messaggi su questa lettera, deve essere inviata o no, ma siete sicuri? Ecco, ma nel caso della mamma di Paola, le arriva tutto tranquillo a casa o Paola o la mamma di Paola devono attivarsi per ricordare all'INPS? No, noi ci siamo. Noi ci siamo, siamo qui, abbiamo diritto. Allora, l'istituto sa che la mamma di Paola comunque ha in godimento una pensione di reversibilità e quindi dovrebbe procedere al ricalcolo della prestazione ora per allora. Il problema, come dicevo prima, per gli eredi che non hanno una pensione, che magari, ammettendo che l'erede sia stata Paola. Sì. Dottor Venanzi, in quel caso, perché lei non percepisce la pensione di reversibilità, lavora per conto suo, poteva essere così. In quel caso l'INPS dovrebbe mettere a disposizione la somma e Paola accederà a riscuotere quella somma nel momento in cui avrà adempiuto a tutte le formalità. In questa fase però quello che mi preme sottolineare è che il decreto legge c'è, ma dobbiamo attendere comunque la circolare esplicativa per tutti quegli aspetti che naturalmente una norma di legge non può andare a contemplare. Ma se l'INPS vuole mettere in pagamento queste somme dal 1 agosto, la circolare dovrebbe arrivare in tempi brevi, immagino, dottor Venanzi. ragazzi. Esattamente. Speriamo, staranno lì tutti i tecnici a scrivere tutti i dettagli. Tra l'altro noi stiamo stressando un po' il discorso del primo agosto. Non è un caso che parliamo del primo del mese, perché in concomitanza di questa novità, cara Nicoletta, ce n'è anche un'altra. C'è un cambiamento importante nei tempi in cui verranno pagate le pensioni da adesso in poi, a inizio mese e non più alla fine. Dottor Venanzi, perché cosa cambia per i pensionati? Allora, per i pensionati che già erano, diciamo, in pensione con una prestazione a carico dell'INPS, quale istituto di previdenza del settore privato, non cambia nulla, perché già riscuotevano la pensione il primo del mese. La novità importante riguarda tutti quei pensionati del settore pubblico che al momento riscuotono la pensione invece il 16 del mese, e quindi già con il pagamento di giugno si vedono anticipare di 2 settimane di fatto la prestazione, e se i pensionati accedono al loro cassetto previdenziale online con le proprie credenziali, con le proprie password, già vedono che il bonifico è stato disposto con valuta 1° giugno, e tutti quelli che poi godono di altre prestazioni, perché magari hanno una pensione pagata una parte dall'INPS, sì, oppure le indennità di accompagnamento, quelle per erogate dall'INAIL, le rendite vitalizie, che comunque avevano termini di pagamento diversi, così facendo sono stati accentrati tutti al primo del mese. Quindi il pensionato che prima si vedeva magari un bonifico il primo, uno il 10 e l'altro il 16, dal mese di giugno se ne vedrà solo uno al primo di giugno. 800 24 00 24, ancora pochi minuti di tempo per tempestare il nostro povero Fabio Venanzi di domande. Lascerei fuori, dottor Venanzi, magari ne faremo oggetto più avanti di un'altra trasmissione, magari la metteremo insieme alla circolare IMSS quando questo documento sarà pronto. Lascerei fuori la domanda sul blocco della svalutazione dei montanti contributivi. Noi avevamo già fatto una puntata con Vitaliano D'Angerio su questo argomento, perché tutti i contributi che tu versi, Nicoletta, servono a calcolare la tua pensione del futuro, ma questo calcolo dell'assegno pensionistico si basa anche sull'andamento del PIL degli anni pregressi. Siccome questo PIL è stato negativo, invece che la rivalutazione del montante contributivo, noi abbiamo parlato di svalutazione, che è stata bloccata con un provvedimento del governo e ribadita dal decreto di cui stiamo parlando questa mattina. Dottor Venanzi, ho sintetizzato come spiega bene, insomma, ecco, dottor Venanzi, ecco. Debora è chiarissima, insomma, ruberà il lavoro. No, ecco, attenzione, perché io capisco quando mi spiega Debora. No, guardate, è tutto molto difficile. No, siccome è complicata questa faccenda, ne facciamo oggetto di un'altra puntata, dottor Venanzi. Oggi continuerei, per gli ultimi 2 minuti di tempo che abbiamo a disposizione, a rispondere sul tema caldo di oggi, l'indennità che rientra ai pensionati dal primo agosto. Vado da Roberto? Sì, sì. Buongiorno Roberto, benvenuto. Questa la lettera fantasma sul web la chiameremo, esatto. Roberto. Sì, buongiorno. No, la domanda è questa. Io ho capito che la lettera che circola in rete non è per ottenere il rimborso che giustamente Renzi dà, diciamo, dal 6 al 27%, quindi con una perdita netta da 2.000 a 4.800 euro l'anno. Ma si riferisce a poter ottenere il tutto, cioè quello che la consulta ha stabilito del reintegro totale di quello che non viene dato. Quindi la lettera è per avere il tutto, poi l'automaticità di questo tantum che danno è automatico, quindi da agosto il governo Renzi da quelle piccole cifre, quelle irrisorie cifre, Roberto, che sono state lette sul giornale. Grazie per la precisazione. Nel frattempo, peraltro, preciso anche che si erano attivati i nostri assistenti in redazione, Marco e Isotta, e avevano esattamente trovato lo stesso documento. Quindi non si tratta di un facsimile da inviare all'INPS per fare la richiesta di questa indennità che sarà riconosciuta in automatico, ma un passaggio ulteriore. Dottor Venanzi, abbiamo chiarito il mistero. Quindi un adeguamento proprio totale in base alle regole previgenti. Esatto, quindi insomma una sorta di sollecitazione affinché si riconosca tutto e non in termini parziali quello che i pensionati ritengono sia loro. Maria Grazia da Trento, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo sapere esattamente quali sono gli importi suscettibili di questo bonus. Sì. Perché appunto lordi, perché ecco, ho sentito che il massimo sono 2007, da Padoan, e poi dopo invece si parlava di 3.000, per cui non si capisce bene. Allora, intanto io agli ascoltatori che vogliono degli esempi concreti sugli importi, se volete scriverci una mail a cuoredenari@radio24.it, io ruberò il PDF della pagina del Sole 24 Ore. Brava. Di giovedì 21 maggio e la spedisco a tutti a Pioggia, a Raffica, perché ci sono delle tabelle molto chiare. Dottor Venanzi, per concludere con un esempio, possiamo far capire a Maria Grazia la questione degli importi come funziona? Il borso spetterà a chi ha una pensione lorda mensile appena superiore a 2.800 euro. Chi invece ha una pensione lorda mensile di 1.400 euro non si vedrà attribuire nulla, perché già ha goduto della rivalutazione durante gli anni passati. Allora, c'è qualche altra informazione magari fondamentale, veloce, che dobbiamo dare e non abbiamo dato, dottor Venanzi, oppure ci dobbiamo tornare con la circolare IMSS? Direi a questo punto ritorneremo sì, sul tema. Per gli aspetti di ulteriore dettaglio sicuramente. Ottimo, grazie. Torni presto a trovarci. Volentieri, un saluto. Soprattutto per far chiarezza in questa giungla che è veramente veramente complicata. Speriamo per vederci quantomeno un pochino più chiaro, e noi di vista, ma di vista dei nostri bambini, parleremo subito dopo le informazioni sul traffico con un grandissimo esperto, il professor Nucci, che tra poco entrerà nel nostro studio. A tra poco. Cuore e denari. È meglio che intervenga. Questi sono i giocattoli, ok? Uh-huh. Alcuni sono miei, alcuni sono tuoi. L'unica differenza è che tutti i giocattoli belli sono miei. Come funziona? Tu hai i giocattoli scemi da bambini piccoli, capito? Mi piace. Lo credo bene, no? È un giocattolo da adulto. Posso vederlo? Me lo presti un momento? Ma se sei appena nata vuoi subito arrivare ai giocattoli importanti? Ma sei matta? Lui è sempre così cattivo con me. Ma insomma, io sono grande, hai capito? Tò la palla. T'ho detto, gioca con la palla. Non prendi, mi piacciono le palle! Non sono un frignone. Sì che lo sei invece, questa è tutta opera di mamma, frignone. Smettila di chiamarmi frignone. Non aveva detto che non avrebbero divorziato? Sì. Allora mamma è una bugiarda. Io non sono un frignone, hai capito? Mi stai facendo male. Mi stai davvero facendo male. Seconda parte di Cuore Denari. Come anticipato, oggi osserviamo i nostri bambini intenti a giocare, a leggere, a disegnare, a guardare la TV, e lo facciamo con un grandissimo esperto, il professor Paolo Nucci, direttore della clinica oculistica universitaria Ospedale San Giuseppe di Milano. Professore, buongiorno e bentornato. Grazie dell'invito. Abbiamo già i nostri ascoltatori che hanno chiamato per prenotare i vostri interventi, i loro interventi all'800 24 00 24. Tra poco raggiungiamo subito Renzo e Luca. Ma professor Nucci, Paolo Coelho scriveva che osservare un bambino, un adulto, può imparare sempre tre cose: a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa, a pretendere con ogni sua forza quello che desidera. Secondo me all'inizio della settimana queste cose aiutano un po' tutti. Comunque, lei, professor Nucci, osserva con grande attenzione i bambini e il modo in cui loro osservano l'ambiente che li circonda. Ha una lunga esperienza, è un punto di riferimento nell'oculistica pediatrica a livello internazionale. Che cosa però ha imparato dai bambini in tanti anni di professione? Dai bambini impariamo tutti i giorni qualche cosa. Il bambino generalmente è più simpatico del genitore. Anche noi ci interfacciamo molto col bambino ed è una cosa che ci stimola. Pensi quanto sarebbe bella una nazione in cui questi tre attributi, questi tre comportamenti li avessero anche i più giovani, cioè magari i ventenni, i venticinquenni. Questo in realtà non accade. Ragazzi giovani che sono contenti senza motivo io non ne conosco molti, mentre i bambini lo sono, probabilmente perché sono relativamente incoscienti. Occupati a fare che cosa? I bambini generalmente giocano, e quindi quando giocano impegnano la vista, quindi noi utilizziamo anche l'attività ludica per interpretare, capire in molti casi se hanno dei problemi di vista. E quindi questo è anche un buon consiglio per i genitori: osservate i vostri bambini e ascoltateli. 800 24 00 24. Professor Nucci, lei chiama i suoi pazienti minuscoli, minuscoli. Ma quando sono davvero minuscoli, appena nati o con pochi giorni di vita, come vedono? vedono a sufficienza per avere dall'ambiente la stimolazione che gli serve. Loro hanno bisogno di riconoscere il volto della mamma. Riconoscere il volto della mamma significa nutrirsi e quindi per questa ragione fisiologica il bambino ha una capacità di riconoscere quei tratti della mamma in maniera particolare. Certamente non hanno la capacità di leggere e di vedere bene le cose in dettaglio, ma hanno la capacità di vedere quello che a loro interessa. Prevenire è meglio che curare, professore, vale anche e soprattutto per i disturbi visivi che possono manifestarsi sin dalla nascita. Ma siete in grado di intercettarli? Ci sono dei controlli adeguati? Assolutamente sì. Si pensa che dovrebbe essere necessario già vedere il bambino nel nido. Questo purtroppo non è sempre possibile. Non tutti i nidi hanno a disposizione un oculista per fare questi controlli. E a volte il controllo semplice del pediatra, del neonatologo, non è in grado di svelare alcuni elementi. Certo, eseguire per esempio il test del riflesso rosso mentre il bambino è ancora in culla, prima di essere consegnato ai genitori, è certamente una cosa importante e ci permette di riconoscere precocemente le cataratte congenite, i glaucomi congeniti, tutti i quadri malformativi più gravi nei quali l'intervento dell'oculista deve essere immediato. Andiamo subito a sentire i nostri ascoltatori e partiamo con Renzo che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Renzo, vai. Sì, volevo solo dire che ho una testimonianza, diciamo, mia figlia adesso ha 10 anni e porta gli occhiali, comunque ci siamo resi conto che un nostro amico aveva un problema con un bambino che aveva 6 anni e ci vedeva pochissimo da un occhio. Abbiamo fatto con cartello tranquillamente di vedere a nostra figlia le lettere, prima con un occhio e un altro e poi con l'altro, e ci siamo resi conto che con un occhio non ci vedeva quasi assolutamente. Ci siamo recati presso un oculista e ci ha consigliato, appunto, aveva una grossa perdita di vista e abbiamo dovuto tappare dai 4 anni fino ai 6 anni l'occhio, diciamo, che ci vedeva per poter stimolare l'occhio debole. E noi abbiamo risolto il problema e ci hanno detto tranquillamente che se non avessimo fatto questo intervento nostra figlia non avrebbe potuto vedere correttamente. Sono stati bravi a intercettare perché i bambini non si lamentano perché non hanno termini di paragone, okay. Giusto? Esatto, è stato bravo il genitore, è stata brava la mamma a osservare che cosa? Che un occhio vede meglio dell'altro. Come si fa a capire che un occhio vede meglio dell'altro? L'unico test possibile è testare proprio la capacità visiva, cioè chiedere al bambino: ma ci vedi allo stesso modo oppure no? Tenete conto che l'oculista in realtà ha delle altre armi per poter svelare questi difetti. Sono armi un pochino più complesse, ma già il genitore e a volte il maestro sono in grado di fare questo tipo di piccola detezione precoce. Riconoscere precocemente significa anche poter trattare questa condizione. L'ambliopia è molto comune, siamo al 2-5% della popolazione che è affetta da questo problema. Professore, io vorrei che lei ci aiutasse prima ad osservare i nostri bambini, a guardarli negli occhi, a seguire i loro sguardi, poi li osserviamo mentre giocano e colorano oppure si avvicinano alla TV, al tablet. Allora, esistono molti falsi positivi, cioè sì. I bambini hanno sempre degli atteggiamenti viziati, ciò non di meno anche un falso positivo si accetta, l'importante è non perdere dei falsi negativi, cioè perdere dei bambini che hanno un problema e noi per nostra tranquillità a volte non li portiamo dall'oculista. In realtà il controllo deve essere fatto sempre dallo specialista quando? Certo, quando il bambino si avvicina molto, oppure quando gli si chiede se vede bene oppure non vede bene con un occhio rispetto all'altro, oppure quando assume pervicacemente sempre una posizione viziata del capo. Le posizioni anomale del capo, quando sono sempre identiche e uguali, sono delle posizioni indicative anche per l'oculista. Quindi intendiamo per posizione viziata del capo quando il bambino, ad esempio, una inclinazione del capo sempre dalla stessa parte quando guarda la TV, oppure una rotazione del capo, oppure osservare le cose con il mento in basso oppure il mento sollevato. Sono delle posizioni che, se vengono prese costantemente, hanno sicuramente una ragione. 800 24 00 24, abbiamo tempo per andare a Frosinone, Luca. Sì, prendiamo la domanda e poi gli rispondiamo dopo il giornale radio. Luca, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, Deborah, complimenti per la trasmissione. Grazie. E i tuoi ospiti. Grazie. Noi ho un bimbo di 9 anni e ci siamo accorti circa 3 anni fa che lui tendeva a chiudere sempre l'occhietto sinistro. Mm-hmm. E quindi abbiamo ritenuto opportuno fargli fare una visita oculistica, da cui è emerso che aveva questo occhietto pigro. Mm-hmm. dopo 3 anni di bendaggio, quindi partendo dal bendaggio totale, poi progressivamente sempre meno, il 22 abbiamo fatto una visita in cui il dottore ci ha detto che era corretto. Sì, esattamente. Allora Luca, devo dare questa è una buona notizia, l'occhio pigro del bambino di Luca è stato corretto, noi andiamo a sentire il nostro GR, voi continuate a chiamarci e il professor Nucci ci darà tutte le indicazioni. Che cos'è l'occhio pigro? Si cura definitivamente? A tra poco. Cuore e denari. Poi ho visto gli occhi tuoi rotolando. Torniamo ad occuparci del tema della seconda parte di Cuore Denari, ci occupiamo degli occhi dei nostri bambini, 800 24 00 24, di quelli minuscoli, come li chiama il professor Nucci, direttore della clinica oculistica universitaria ospedale San Giuseppe di Milano, che abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi, sino a quando sono più grandicelli. Sì. Obiettivo, intercettare precocemente dei segnali per sottoporre il nostro bambino ad una visita oculistica, che però, professor Nucci, andrebbe comunque fatta. Entro quanto? E ci chiede ad esempio Jessica su Facebook, dall'oculista, dall'ortottista, altri ascoltatori dicono ma non è sufficiente il pediatra, da chi si porta? È solo l'oculista? E poi l'oculista come lei che si occupa di bambini? Qui mi metto in imbarazzo, perché devo dire che, uno, il pediatra è fondamentale, se non altro perché ha una presenza capillare sul territorio e mediamente devo dire che i pediatri di famiglia hanno un interesse specifico verso la salute del bambino, quindi sono anche formati per riconoscere precocemente, per esempio, quello di cui parlavamo prima, l'ambliopia. Ma è ovvio che noi dobbiamo dire che la visita del pediatra è una visita finalizzata a riconoscere la capacità visiva del bambino, a individuare un bambino che vede un po' di meno, ma certo non può essere una visita completa. L'ortottista invece è un validissimo supporto nell'attività di prevenzione. Chi fa ortottica fa semeiologia, cioè studiano attraverso degli strumenti che oramai sono diventati di un'estrema complessità l'occhio del paziente, assistendo l'oculista, che poi rimane l'unico a dover fare la diagnosi, cioè è quello che in fondo si prende la responsabilità di dire tuo figlio sta bene oppure non sta bene. Quindi direi che i passaggi sono: il pediatra senz'altro è opportuno e fondamentale, ma non basta. Arriva l'ortottista, che può fare molto di più, soprattutto usare bene le attrezzature di cui oggi noi disponiamo, ma alla fine è l'oculista. Se poi è un oculista che ha una certa dimestichezza con i bambini, meglio perché una visita che può durare 4 minuti con un oculista che si occupa di bambini, che ha il naso per riconoscere le cose, è meglio di una visita di un oculista che magari ha meno dimestichezza col bambino. Professor Nucci, prima del GR abbiamo raccontato una storia a lieto fine, un occhio pigro individuato precocemente e corretto. Certo. Sempre così? Entro quanto bisogna intervenire e fare diagnosi? Il periodo plastico, cioè quello nel quale la struttura cerebrale, le connessioni, le sinapsi, cioè queste interconnessioni tra i neuroni, si attiva e si realizza, quindi una corteccia visiva, una parte del cervello che è in grado di percepire bene le immagini, si ha da 0 a 8-10 anni, non più tardi. Anche se devo dire qualcosa di nuovo c'è. Esistono dei farmaci che si stanno sperimentando, non ancora disponibili sul mercato, che sono in grado di riattivare la plasticità persa del sistema nervoso, cioè si può intervenire anche più tardi ed ottenere qualche risultato, utilizzando dei farmaci che riattivano dei mediatori chimici che, come dire, fanno rivivere un po' la parte di cervello che è stata abbandonata e dedicata all'occhio che non funziona. E quindi Matteo da Mantova, che ci ha scritto al 349-238-6666 un messaggio per sapere se l'occhio pigro si cura anche dopo i 30 anni, la risposta è non con nulla che sia oggi disponibile. Questo però lo dico, state lavorando. Ci stiamo lavorando e i grossi gruppi di ricerca, anche italiani, sono all'avanguardia in questo tipo di ricerca. Professor Nucci, la posizione della testa del bambino ha un po' messo in preoccupazione i nostri ascoltatori. Gianni da Rutigliano ha un bambino di 21 mesi, lui si avvicina molto alla TV quando la guarda, fa male? Allora, mi viene da chiedere che cosa fa un bambino di 21 mesi davanti alla TV, ma forse dei fratelli grandi come... Esatto, oppure insomma ecco. Sta lì un attimo quando è accesa, lui tende ad avvicinarsi e papà ha osservato questo Nucci. Comportamento. Guardi, il bambino se potesse entrerebbe dentro la televisione, quindi diciamo che questo non è così indicativo. Certo, se questo bambino mentre osserva la televisione utilizza anche una posizione ruotata, inclinata, l'oculista deve vederlo. Poi magari l'oculista dirà che non è nulla di serio, nulla di importante. A volte il bambino tende a mirare, è come se avesse un fucile in mano e ruota la testa, la inclina anche un pochino per riuscire a fissare meglio. In altri casi invece ci sono delle franche patologie, mi viene in mente per esempio il nistagmo, che è una condizione in cui gli occhi vibrano e il bambino per ottenere una posizione di stop di questo movimento utilizza delle posizioni laterali dello sguardo. Mi vengono in mente alcuni movimenti oculari che non sono appropriati. La paralisi, per esempio, del quarto nervo cranico, che è una condizione estremamente comune, spessissimo misconosciuta, e che è una condizione che porta il bambino a utilizzare in supplenza la testa per poter non utilizzare il muscolo che è affetto. Cioè, se un muscolo non funziona, io lo faccio con il capo. Di compensazione. Esatto. E quindi queste condizioni sono situazioni che, per esempio, l'oculista è in grado di diagnosticare con discreta serenità e tranquillità, e anche correggibili. Nella maggior parte dei casi queste posizioni anomale sono gestibili chirurgicamente. Andiamo a Maria Grazia, ci chiama da Torino. Buongiorno Maria Grazia, benvenuta. Sì. Forse Maria Franca? Allora, è Maria Franca, l'hanno ribattezzata Maria Grazia, ma grazie comunque. Buongiorno. Buongiorno, ci vuole raccontare o esprimere il suo dubbio, la domanda? Sì, è per un nipotino di 2 anni e mezzo, scusi la voce, sono parata, di 2 anni e mezzo, che secondo me soffre di fotofobia. Si vede molto bene perché io vedo che è lontanissimo, oppure siamo al parco, vede lo scoiattolo dietro al cespuglio, insomma è molto attento, però la luce gli dà fastidio. E lacrima. Ecco, è un giorno addirittura, era quasi sera, non c'era più quel riverbero, e lui proprio ha chiuso gli occhi e è rientrato. Grazie. La fotofobia, quando c'è, è un segno che comunque l'oculista deve sempre indagare. La fotofobia può esserci per la cosa più banale del mondo, un po' di allergia. Il bambino, se ha anche prurito, spesso lamenta anche fotofobia. In genere, quando il problema è la fotofobia, bisogna andare a guardare con attenzione la cornea. La cornea è la parte anteriore dell'occhio, quella specie di vetrino d'orologio che ci consente di guardare l'iride, il colore dell'iride. Bene, la cornea, dovete sapere, che è la parte in assoluto più sensibile del corpo umano. Se una ciglia vi capita sul polpastrello, manco ve ne accorgete, ma se finisce dentro l'occhio vi sentite impazzire, perché l'occhio è estremamente innervato. Quindi è molto importante che, quando c'è una fotofobia, l'oculista osservi questa struttura che si chiama cornea, ed è una cosa che deve essere fatta. Poi ci sono le situazioni ancora più banali, per esempio ci sono degli strabismi che noi chiamiamo strabismi innocenti, l'occhietto che, come dicono gli americani, daydreaming, cioè tende ad andare un po' verso l'esterno, e questa è una condizione che spesso si accompagna a fotofobia. E poi ce ne sono anche di molto meno importanti. Per i genitori all'ascolto, quindi, una posizione viziata del capo, la fotofobia, quali altri segnali devono essere intercettati e dovrebbero spingere il genitore a sottoporre una visita? Il bambino che strizza gli occhi, per esempio, un bambino che continua a strizzare quando vuole osservare, oppure se si stropiccia frequentemente gli occhi, certo questo è anche un altro segnale che consiglia di portare il bambino dallo specialista, tenendo conto che una visita oculistica è breve e noi con poche manovre, alcune veramente poco fastidiose, anche le gocce, via, sfatiamo il mito delle gocce così terribili, siamo in grado nel giro di pochissimo tempo di individuare se un bambino ha problemi importanti. Poi, per carità, ci sfugge anche a noi qualcosa, ma in linea di massima l'oculista pediatrico è più avvezzo a riconoscere precocemente questi segni. Professore, noi abbiamo chiesto ai genitori all'ascolto, se avete un disturbo visivo chiamateci, soprattutto se siete genitori di un bambino abbastanza piccolo, chiamateci, perché molto spesso i disturbi visivi sono ereditari, è così? Sì. I disturbi visivi, come tutto, sono ereditari. In realtà, se pensate alla miopia, che cos'è la miopia? Non è altro che l'allungamento del bulbo oculare. E come noi siamo alti 1,85, se nostro padre è alto 1,83, così certo. Anche la lunghezza del bulbo è ereditata. Certo, le nuove generazioni sono un po' più come dire, fragili rispetto alla miopia. C'è stato un articolo recentissimo su Nature che parlava di proprio myopia boom, il boom della miopia. Abbiamo fatto anche una puntata in quell'occasione, ricordo. Esatto, e proprio la miopia, per esempio, è legata a delle attitudini, delle abitudini che noi abbiamo sbagliate, cioè lavorare troppo da vicino, stare poco, per esempio, all'aria aperta. La maiopia, no, mi aveva incuriosito, boom. Maiopia, la maiopia. Andiamo a Valli, che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io vi ringrazio molto che mi avete chiamato. Sono una nonna di una bimba di 7 anni. Sì. Che si chiama? Si chiama Alessia. È un po' di mesi che tribuliamo perché questa bimba è innamorata dei cartoni. Ecco. Non è la sola, eh? Ecco, allora il problema è questo, che lei fa andare gli occhi, no? Proprio sembrano due palle da una parte e dall'altra, ma in una maniera veramente quasi sembra un, non so, sembra quasi che un sia... fumetto anche lei. Ecco. Ecco, un cartone animato anche lei. Ecco, allora c'è stato verso Natale che sembrava che questa cosa si fosse calmata, adesso è di nuovo tornata in pieno. E io sono un po' in apprensione perché questa bimba è quasi sempre con me, no? Certo. Va a scuola, fa tante cose. E allora volevo sentire proprio il professor Nucci. Sentiamo il professor Nucci che cosa dice. Beh, mi auguro che la bambina sia stata comunque visitata da un oculista. 7 anni, il controllo è obbligatorio. In questo caso non riesco bene a capire se gli occhi vibrano, quindi si muovono in maniera molto veloce. Questo potrebbe essere un caso di nistagmo, magari non importantissimo, non drammatico, ma sicuramente da indagare. In altri casi i genitori e i nonni ci riferiscono dei movimenti strani degli occhi. Potrebbe essere che uno dei muscoletti non funziona molto bene, quindi l'occhio sembra andare un po' per conto suo. Quello che purtroppo devo dire è che la visita è necessaria e non mi accontenterei delle mie 4 parole qui in radio. 800 24 00 24, avete ancora tempo per saltare, superare la barriera rosa, intervenire con una vostra esperienza o per sciogliere un vostro dubbio. Professor Nucci, che le goccine facciano un po' paura ai genitori, ma lei ha sfatato questo mito, è vero, come d'altronde anche c'è l'idea che se il bambino porta, il suo disturbo visivo viene corretto precocemente con gli occhiali, questo insomma alla fine sia più che un danno che un beneficio, come se a correggere troppo precocemente non si desse tempo alla natura di fare le cose per bene, di mettersi un po' a posto. Vale per la miopia, per altri disturbi di cui gli ascoltatori ci stanno scrivendo. Ho sintetizzato un po' questo pensiero che immagino lei conosca bene, perché avrà incontrato un genitore che ma non è che rischiamo a mettere gli occhiali, non è troppo presto? Guardi, questo è il mio quotidiano, cioè ogni giorno vedendo un bambino e prescrivendo l'occhiale mi trovo di fronte a dei genitori che sono perplessi dicendo ma non è che si abitua poi all'occhiale. Allora, una cosa la voglio dire proprio per tranquillizzare tutti quelli che si trovano davanti ad un oculista esperto nei bambini che prescrive l'occhiale. Non dovete mai pensare che l'oculista non abbia strettamente pesato se quell'occhiale è veramente necessario. Nessuno prescrive un occhiale che modifica la vita del bambino con leggerezza. Rispetto al passato posso dire una cosa. Mentre 10 anni fa avrei detto sicuramente che non c'era nessuna relazione tra questa abitudine, la prescrizione dell'occhiale, poi il bambino si abitua, eccetera, oggi abbiamo delle evidenze e soprattutto nelle miopie, anzi direi esclusivamente nelle miopie rilevanti, anzi in tutte le miopie, dare l'occhiale abitua il bambino a vedere in un certo modo e quindi è un po' una via del non ritorno. Quando noi diamo l'occhiale in un bambino miope dobbiamo aspettarci che questo occhiale non solo sia poi cercato dal bambino, ma che in qualche modo assecondi anche l'evoluzione del difetto. Questo, per carità, ripeto, è sempre molto ben valutato dall'oculista, ma un oculista che prescrive l'occhiale della miopia deve spiegare chiaramente al genitore che esiste un'alternativa, che può essere quella di ritardare un poco la prescrizione dell'occhiale, oppure addirittura utilizzare un po' prima le lenti a contatto. Da che età si possono usare le lenti a contatto? Ah, perché mi guardi, le ho messe prestissimo. Certo. Una marea di anni fa. Perché me le avevi raccontato. Sì, sì, sono stata nel mio paese praticamente la prima persona a cui il mio medico mise le lenti a contatto. Avevo 14 anni, vabbè, ero già grande, però diciamo data, siccome è successo più di 30 pochissimi anni fa. Pochissimi esatto. anni fa. Direi che mia moglie, per esempio, porta le lenti a contatto da quando aveva, portava le lenti a contatto, perché poi l'ho operato di miopia, quindi non le porta più, da quando aveva 7 anni. Mm-hmm. Perché avendo un astigmatismo importante si riusciva a correggere meglio, a compensare meglio con la lente a contatto. Oggi la preoccupazione dell'utilizzo della lente a contatto è sicuramente di molto inferiore rispetto al passato. Però devo dire che utilizzarle prima dei 7 anni è un poco avventuroso, perché poi ci vuole un minimo di collaborazione da parte del bambino. Ma dovete comunque tener presente che in una situazione particolare, come quella della cataratta congenita, quando un bambino viene operato molto presto, poche settimane di vita, di cataratta, è l'unica alternativa è la lente a contatto, e i bambini a quell'età le tollerano molto molto bene. I minuscoli. Mm. Allora andiamo dal nostro amico. Sì, Nico da Varese, che vuole raccontarci di un'associazione. Nico, benvenuto. Sì. Buongiorno alle splendide conduttrici, al professore e a tutti coloro che ci ascoltano. Ottimo. Io faccio parte da anni di un'associazione che è ben nota, perché è quasi 100 anni, che sono i Lions International. Ah. Noi ci occupiamo, fra le diverse attività su base volontaria, gratuita, soprattutto dei service riguardanti la vista. Vorrei ricordare che all'Imbiate c'è una scuola per l'allevamento e l'addestramento dei cani guida per i non vedenti, no? Sì. E tante altre iniziative. Poi a livello di club ognuno si occupa anche di altri service. Uno di questi è stata la ricerca per lo screening per l'individuazione dell'ambliopia, cosa che abbiamo parlato poc'anzi, vale a dire l'occhio pigro. Sì. Io non sono uno specialista, quindi se commetto qualche errore chiedo al professore umilmente venia. In ogni caso, questo screening che abbiamo effettuato praticamente nella zona di Bustarsizio Valle Olona ha avuto dei risultati direi incoraggianti, nel senso che ci sono tanti bambini affetti da questa patologia in primissima età e sono individuabili facilmente con una macchina che è un refrattometro, che permette sin dai primi mesi di vita di scoprire questa carenza, questa deficienza, questa patologia. Io devo dire, testimonio personalmente questo fatto, perché essendo occupato quando ero presidente di questo club, sì, ho continuato l'attività e ho detto anche a mio nipote, dai, avevano quasi un anno, perché non nipotino, sono nonno ovviamente, perché non sottoponiamo questo test anche. Quindi anche il test, Nico, c'è e quindi permette di diagnosticare precocemente questo disturbo. Intanto ringraziamo Nico per l'impegno e per le associazioni che si spendono. L'attività dei Lions su questo tema è straordinaria e da molti anni, quindi i Lions sono sicuramente da applaudire. L'utilizzo di queste apparecchiature ha un'unica fragilità: non si può mettere in mano a chiunque questa apparecchiatura, perché sennò il livello dei falsi positivi, cioè dei bambini che dietro un'apparecchiatura segnalano un difetto, è veramente altissimo. E quindi in questo caso noi intaseremmo una serie di ambulatori. Poi che ogni cosa sia utile per riconoscere precocemente la miopia, quindi indirizzare nella maniera corretta i bambini, questo è sicuro. Che ci sia dietro un oculista sempre è altrettanto fondamentale, perché queste apparecchiature sono belle, molto funzionali eccetera, ma rischiano di dare un overdiagnosing, cioè si diagnostica di più. Professor Nucci, intanto lei deve prometterci di tornare, perché le domande dei nostri ascoltatori sono tante, ma rispondiamo a Paola in 30 secondi. Partorisce ad agosto il suo primo figlio, deve richiedere il test del riflesso rosso prima, visto che il nonno soffre di glaucoma? Ma il glaucoma dell'anziano non è quello del bambino, per fortuna. Se invece fosse un glaucoma congenito, cioè quello, il nonno è nato con questo problema, sicuramente il riflesso rosso ed anche una visita da parte del consulente oculista operante nella struttura dove lei partorirà. Grazie professor Nucci. Se arrivano delle domande, lei lo sa che, sì, che deve fare i compiti a casa. Purtroppo fa i compiti deve a fare casa. I compiti a casa. Noi abbiamo terminato, ma ritorniamo qua domani mattina puntuali come sempre dalle 11 in poi con Cuore Denari. Cara la mia Nicoletta, buona giornata. Anche a te, a domani. Grazie professor Nucci.